minuti su Rigonia. Quando andavo a scuola ero una gran secchiona. Volevo sempre far bella figura di fronte ai miei insegnanti. Sulla punteggiatura sapevo tutto. I miei temi erano fatti di periodi tanto chiari quanto fiacchi e noiosi. In essi non si sarebbe potuto trovare un solo pensiero originale o un solo sentimento genuino. Ero ansiosa di presentare agli insegnanti ciò che credevo che volessero. Alle superiori mi ero preso una cotta per la letteratura. Voglio dire che ne andavo pazza. Battevo a macchina più e più volte le poesie di Gerard Manley Hopkins in modo da impararle a memoria. Leggevo ad alta voce John Milton, Shelley, Keats e poi cadevo in deliquio sul lettino del dormitorio. Quando frequentavo il college, alla fine degli anni 60, leggevo quasi esclusivamente scrittori di sesso maschile, generalmente defunti, inglesi o del resto d'Europa. Erano quanto di più lontano si potesse immaginare dalla mia vita di tutti i giorni. E sebbene li amassi moltissimo, in nessuno di loro veniva riflessa la mia esperienza. È probabile che inconsciamente partissi dal presupposto che scrivere fosse qualcosa al di sopra delle mie capacità. Non mi venne mai in mente di poter scrivere, sebbene uno dei miei desideri segreti fosse quello di sposare un poeta. Dopo aver finito il college e aver scoperto che nessuno mi avrebbe assunta per leggere romanzi e andare in deliquio per la poesia, insieme a tre amici misi su un ristorantino in cooperativa, situato nel seminterrato del Newman Center di Ann Arbor, nel Michigan, aperto solo a mezzogiorno, dove preparavamo e servivamo cibi naturali. Si era agli inizi degli anni 70 e il mio primo avocado l'avevo assaggiato solo un anno prima di aprire il ristorante. L'avevamo chiamato Il pasto nudo, dal titolo del romanzo di William Burroughs, quel momento di gelo in cui ciascuno vede ciò che si trova in fondo a ogni forchetta. Al mattino infornavo focaccine con l'uvetta e focaccine con i mirtilli, e se mi girava ne facevo anche con il burro di arachidi. Naturalmente speravo che i clienti piacessero, ma sapevo che ci stavo abbastanza dietro. Ma sapevo che se ci stavo abbastanza dietro, di solito quelle focaccine mi venivano bene. Avevamo creato un ristorante. Al di fuori di noi stessi non c'erano più risposte azzeccate che ci potessero valere un bel voto a scuola. Stavo imparando a dar fiducia a me stessa e alle mie capacità. Un martedì mattina dovevo fare una ratatouille. Quando la si prepara per un ristorante, non ci si limita a fare a tocchetti una cipolla e una melanzana. Sul piano di lavoro c'erano montagne di cipolle, melanzane, zucchini, pomodori e aglio. Trascorsi alcune ore a tagliare e affettare. Quella sera, tornando a casa dal lavoro, mi fermai alla libreria Centicord in State Street e mi misi a girellare fra gli scaffali. A un certo punto scorsi uno smilzo volumetto di poesie intitolato Frutta e Verdura di Erika Jong. La Jong non aveva ancora pubblicato il suo romanzo Paura di volare e non aveva ancora raggiunto la notorietà. Aprii il libro e la prima poesia che mi cadde sotto gli occhi parlava di come si cucina una melanzana. Ero stupefatta. Allora si poteva scrivere anche di roba del genere? Di simili banalità? Di cose che anche a me capitava di fare? Nel cervello mi si stabilì all'improvviso un nuovo circuito. Tornai a casa deciso a scrivere delle cose che conoscevo, a dar fiducia ai miei pensieri e ai miei sentimenti e a non guardare al di fuori di me stessa. Non ero più a scuola, potevo dire quel che volevo. Cominciai a scrivere della mia famiglia, perché così nessuno avrebbe potuto dire che mi sbagliavo. I miei familiari li conoscevo meglio di chiunque altro. Tutto questo accadeva 15 anni fa. Un amico una volta mi ha detto: abbi fiducia nell'amore e ti porterà ovunque tu voglia andare. Io aggiungerei: abbi fiducia in ciò che ami, continua a farlo e ti porterà ovunque tu voglia andare. e non preoccuparti più di tanto della sicurezza. Quando si comincia a fare ciò che si vuol fare, arriva anche un profondo senso di sicurezza. Tanto quanti di noi sono veramente al sicuro, per quanto alto sia il nostro stipendio? Nel corso degli ultimi 11 anni ho tenuto laboratori di scrittura nell'Università del New Mexico, alla Lama Foundation, con degli hippie di Taos nel New Mexico, con delle suore di Albuquerque, con i ragazzi del riformatorio di Boulder, all'Università del Minnesota, al Northeast College, una scuola a indirizzo tecnico di Norfolk, nel Nebraska, nell'ambito del programma di poesie nelle scuole dello stato del Minnesota, con gruppi che si riuniscono a casa mia la domenica sera e con gruppi di gay. I metodi che insegno sono sempre gli stessi. Si tratta di avere fiducia nella nostra mente, di creare una sicurezza che nasca dalla nostra esperienza. Nozioni così fondamentali che non mi sono mai stancata di trasmetterle agli altri. Anzi, in questo modo, ne acquisto una comprensione sempre più profonda. Nel 1974 ho cominciato a fare meditazione seduta. Dal 1978 al 1984 ho studiato Zen in maniera formale con Dainin Katagiri Rushi al Minnesota Zen Center di Minneapolis. Ogni volta che andavo da lui e gli facevo una domanda sul buddismo, avevo difficoltà a capire la risposta finché lui non diceva: «Vedi, è come quando scrivi, e tu?» Quando faceva riferimento allo scrivere, capivo. 3 anni fa mi disse: «Perché vieni a fare meditazione? Perché come addestramento non usi la scrittura? Se ti impegni abbastanza a fondo nello scrivere, ti porterà ovunque tu voglia». Questo libro parla della scrittura. Parla anche del modo in cui possiamo usare la scrittura come addestramento per penetrare nella nostra esistenza e raggiungere l'equilibrio interiore. Ciò che qui si dice della scrittura può essere applicato alla corsa, alla pittura, a qualsiasi cosa si ami fare e a cui si sia deciso di dedicare parte della nostra esistenza. Una volta ho letto alcuni capitoli di questo libro al mio amico John Rolwagen, presidente della Cray Research, e lui ha commentato: «Beh, Natalie, è come se tu parlassi del mondo degli affari». Negli affari è esattamente così, non c'è alcuna differenza. Imparare a scrivere non è un processo lineare. Non esiste nessun sistema logicamente ordinato del tipo ABC per diventare un bravo scrittore. Una sola verità, per quanto illuminante, non può risolvere ogni problema. Le verità, in questo caso, sono molte. Dedicarsi alla pratica della scrittura significa, in ultima analisi, occuparsi della propria esistenza nella sua interezza. Se qualcuno ci spiega come si fa a ridurre una frattura alla gamba, non si possono usare quelle stesse spiegazioni per fare un'otturazione a un dente cariato. Così può capitare che a un certo punto di questo libro vi si dica che bisogna essere estremamente precisi e dettagliati. Ciò ha lo scopo di curare il vizio delle divagazioni astratte generali. Poi, però, in un altro capitolo vi si dice che bisogna abbandonare il controllo, scrivere lasciandosi portare dall'onda dell'emozione. Questo per spingere a scendere in profondità in modo da dire quello che avete da dire. Oppure, in un capitolo, si dice che bisogna organizzarsi uno studio, che bisogna avere un posto tutto tuo per noi, che bisogna avere un posto tutto per noi dove scrivere. Il capitolo dopo dice: uscite di casa, chiudete la porta sui piatti da lavare, andate a scrivere al tavolino di un bar. Certe tecniche sono adatte a certi momenti, altre ad altri momenti. Ogni istante è diverso. Cose diverse funzionano ugualmente. Non è affatto detto che una sia giusta e l'altra sbagliata. Quando tengo corsi di scrittura, voglio che i miei studenti scrivano fino alle ossa, che parlino il linguaggio vigile ed essenziale della propria mente. Ma al tempo stesso so bene che non basta dire: bene, adesso scrivete con chiarezza e con la massima onestà. In classe tentiamo diversi metodi, diverse tecniche. Alla fine lo studente centra il bersaglio, arriva a capire ciò che ha da dire e come deve dirlo. Ma è difficile che si possa dire: bene, arrivati al terzo corso, dopo che avremo fatto questo e quello, riusciremo a scrivere bene. Lo stesso vale per la lettura di questo libro. Lo si può leggere partendo dall'inizio per arrivare alla fine, e questo può andare benissimo per una prima lettura, ma si può anche prendere un capitolo qualsiasi e leggerlo. Ciascun capitolo è stato ideato come un tutto a sé stante. Mentre lo leggete, rilassatevi e assorbitelo, come per osmosi, con il corpo e con la mente. E non limitatevi a leggerlo. Scrivete, datevi fiducia, imparate a capire i vostri bisogni. Usate questo libro. Ciao a tutti, buon... Che giorno è oggi? Martedì. Buon martedì. Io ho pochissimo ritorno in cuffia. Ecco. Ah, tutta un'altra vita. Oggi è il 18 giugno 2024, io sono Francesco. Come sempre da Torino, un saluto a Fred che mi ascolta. Che bello, ciao Fred. E questa è Rigonia, ma forse l'ho già detto. Sono le 17.14 e io ho iniziato leggendovi un libro che ho iniziato ieri, ma in realtà avevo già iniziato a leggere. Si chiama Scrivere Zen, manuale di scrittura creativa. L'autrice è Natalie Goldberg e Ubaldini Editore Roma. Vi dico pure l'anno, ma sì, roviniamoci. Comunque, è un libro che ho comprato diversi anni fa, quando studiavo molto sui libri lo Zen. E Writing Down the Bones si chiama in inglese. Infatti, scrivere Zen è abbastanza una forzatura. Prima edizione 86, 87 Ubaldini. Ma non può essere un'edizione 87 questa. Comunque, e l'ho messo da parte perché non mi sembrava abbastanza filosofico. Invece in questi giorni l'ho riaddocchiato, così, per curiosità, per avere qualche spunto anche per la newsletter, perché è un periodo che inizio libri, poi li lascio da parte. Insomma, così ho detto, ma diamogli un'altra chance. E mi ha mi ha sinceramente entusiasmato la lettura. È un libro di 167 pagine. Sono arrivato a pagina 47 in un giorno. Non è chissà che cosa, però l'ho letto prima del lavoro, ho letto dopo il lavoro, ho letto durante il lavoro, ho letto in bagno. Insomma, è stata una bella compagnia. È una scrittura molto veloce, molto semplice, capitoli molto brevi, e appunto questo approccio è molto pratico alla scrittura, ma allo stesso tempo zen. E mi piacerebbe leggervi degli stralci ancora, L'introduzione era decisamente più lunga. Ah, grazie Fred che mi conferma i volumi. Sì, in effetti è una combinazione fortunatissima. Capitoli molto corti, un approccio molto pratico alla scrittura e boh, mi piace l'idea di poterla condividere, nel senso che oggi vengo in onda molto, molto zen, se si potrebbe dire, che non si può dire perché non è quello il punto, però sicuramente non ho nulla di preparato se non questo dannatissimo libro, tant'è che la mia playlist è molto confusa. Prima di entrare in onda ho fatto un quarto d'ora di meditazione perché era quello il tempo che avevo a disposizione e avevo un po' di scorie da buttare fuori del lavoro. Devo dire che leggere così la cosa scritta da un altro e stare concentrato sulle parole e quant'altro è stato un bel esercizio. Zen, quasi meglio della meditazione, mi ha aiutato a buttare fuori queste. Ma che cazzo c'ho? Sembra che ho bevuto una Red Bull, ma stai tranquillo, piano. Gesù santo. Madonna, ma chi è questo? Comunque, mi sono tornati in mente dei brani delle scuole medie. Il primo era Spaceman dei Babylon Zoo, che ogni tanto mi riaffiora. Ma questo qui me l'ero già ricordato altre volte, forse l'avevo anche già mandato in onda. Ma quello che sto per mandarvi è proprio il ricordo più remoto di un'epoca in cui ascoltavo Radio DJ. Radio DJ non faceva sentire solo tamarrate. Era musica commerciale, ma era tantissimo tipo di musica, cioè non c'era solo quella commerciale, commerciale come adesso. E questa canzone è una piccola gemma di uno che lo sa solo il Signore che fine ha fatto. Cioè, sicuramente qualcuno sa che fine ha fatto, ovviamente si scherza, però all'epoca si faceva chiamare K, cioè con la lettera K, che poi trascritto è K con la E e l'accento. Non è acuto, l'altro, quello che non è acuto, grave, sì, l'accento grave. E il brano si chiama Strange World, è una ballata triste, ma anni 90, proprio trasudante, tutta zozza di anni 90. Buon ascolto. Silence chance to say all we have to say, hiding here inside ourselves, we live. dark. Sometimes I wonder why. Strange world, people kill still, no one hears their cries. Strange world, burn these thoughtless tears out of my eyes. Strange world, people talk and tell only lies. Strange world, people kill and hide for a high. Strange world, dream one day we'll see the light. Strange world. Pocket Coffee presenta i consigli di viaggio, i pendolari. I pendolari sono strane figure sempre in movimento. Si spostano su mezzi di locomozione chiamati macchine, con i quali emettono in continuazione suoni come questo. Vi consigliamo, cari pendolari, di muovervi sempre con il compagno giusto. Pocket Coffee e la giornata avrà tutto un altro gusto. Qualunque sia il vostro viaggio quotidiano, con Pocket Coffee è un buon viaggio. Il gusto intenso del vero caffè, il piacere del cioccolato. Pocket Coffee, il tuo compagno di viaggio. No, non ricevo soldi da nessuno per mandare spot radiofonici in onda, infatti... Ne ho raccolti, ma li ho pescati a caso, perché sapete che adesso metto degli spezzoni audio e ero lì che pensavo, ma che cosa voglio mettere? Non voglio mettere niente di troppo esistenziale. E così mi sono venuti in mente gli spot radiofonici. Alcuni saranno brutti forte, altri saranno commerciali forte. Adesso, appunto, ho una playlist veramente molto molto confusa. Questa era Strange World Decay, che appunto, come giustamente ci faceva notare Fred, che giustamente si gira malissimo di fronte agli spot pubblicitari, che sono un genere a sé, quindi non bisogna assolutamente disprezzarli, perché possono essere anche interessanti e frutto di ispirazioni. Detto questo, il pezzo che abbiamo sentito, come giustamente Cristina, che saluto, che ci ascolta, notava, è stato un pezzo che c'è stato un momento che sembrava non si ascoltasse nient'altro, c'era soltanto Strange World Decay. E poi, così come ci hanno riempito le sacche con Strange World Decay, così allo stesso modo è sparito. Ma d'altronde, come giustamente rilevava Fred, è un pezzo tutto anni 90, arrangiamento, l'assolo, la sua voce, questa sua androginità che non c'è più adesso, non c'è quella... cioè è un uomo o una donna che canta, non si sa adesso, sai, se uno non vuole essere né un uomo né una donna, vuole essere un they, un qualcosa terzo. All'epoca questi personaggi avevano una diversa attrattività, lui con questa storia che il suo nome era una lettera, insomma, creava mistero, però il mistero è finito con la fine degli anni 90, non gliene è fregato più niente a nessuno, questa canzone è troppo lunga, lui si lagna e non funziona più, incredibile, però è una bellissima canzone, a solo di violino non me lo ricordavo più e mi ha molto molto colpito e non so perché durante questa seduta mi sono elettrizzato così e poi ho pensato alle scuole medie, forse ho pensato alle scuole medie perché io ero già un bambino abbastanza riflessivo di mio e credo che a un certo punto nelle scuole medie abbia, mentre ascoltavo Radio DJ e andavo a giocare a parco a pallone con i miei amici ai videogames, la parte riflessiva di me è arrivato a un punto che si è detta ma perché mi sto trattando così male da solo? E forse è questo il messaggio che mi arriva dal passato, così di botto, senza senso, mentre sono seduto sul mio bel cuscino rosso da meditazione. Il bimbo Rigoni dal passato appare e dice: ma perché ti tratti male così? Ma che cazzo te ne frega? ascoltati Strange World di Kay. E non so perché Kay, anzi no, lo so perché, ma è un'associazione mentale molto facile, ma in realtà è successo tutto perché, schiacciando le dita sulla tastiera, mi è comparso quest'altro nome qui, che mi ha fatto venire in mente Stromae, che è un altro artista che se la gioca un po' sull'identità, no, di genere, più contemporaneo. Ormai il suo disco che per me è il disco di riferimento suo, ha 11 anni, è uscito nel 2013, un capolavoro senza senso, e infatti vi faccio sentire una traccia che è l'ultima, ma è bellissima anche questa, e è uscito anche nel 2022, ma il disco del 2022 neanche sapevo esisteva, onestamente. Quindi magari lo recupero, magari lo propongo stasera che vada una serata di ascolto. E non lo so, ci prendiamo un attimo per riflettere sulla vita, sulle cose. Mi sembra di andare un po' di corsa, sono già le 5:30, cioè siamo già a metà trasmissione, però non lo so perché mi sembra di correre. Andiamo piano, un po' più zen, vi va? Ai ai ai ai, ai che bruciore! Emorroidi e raga di analisi fanno sentire? Dermovitamina Proctocare Crema, per un fresco sollievo da dolore, prurito e bruciore. Scopri la linea completa in farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni d'uso. Outmin Sal del 3 marzo 2022. Dermovitamina. In farmacia. Rigo-ni-a. Toujours les mêmes discours, toujours les mêmes airs. Hollande, Belgique, France, austère, gauche ou libéraux. Avant-centre ou centriste, ça m'est égal. Tous aussi des magots que des artistes. Je ne dis pas ce que je pense, mais je pense ce que je dis. Quand je vois ce que je vois, est-ce que valent nos vies? Pas si sûr, non, qu'on soit mal poli. Donc vas-y, follow ma folie, ma follow, follow me. Censé devenir un jeune cadre dynamique. J'ai toujours été qu'un jeune stressé qui panique. C'est marqué sur nos actes de naissance en italique. On a tous un pied dans l'hôpital psychiatrique. La nuit dans la bouteille, la journée dans les bouchons. Depuis quand je suis dans les pompes de monsieur tout le monde. La bile dans les oreilles, la fumée dans les poumons. Des moutons, des moutons, des moutons, des moutons. Pardonnez mon petit langage. Oups. Là j'ai plus de 10 ans d'âge. Les médias font trop de chantage. Vous m'avez pris pour un esclave. Debout c'est l'heure du taf. Faut bien limiter la casse. Demande à Raël Sal. On va tous finir en cage. Riche et malheureux, mais heureusement qu'on a l'euro. C'est cool, non, mais si coûteux que l'argent est à couper au couteau. Et ça taffe pour dépenser, d'arrache-pied ça pour que ça marche. Crash, crash et du cash, et ça saigne jusqu'à être balafré. C'est pour les mecs avec qui j'ai grandi pendant des années. Sans vous retourner, me renie par rapport au succès. Tu sais bien, la vie c'est pas, pas la peine d'en faire un fromage de mon dossier. Vu qui barre dans les pieds. Car j'ai rien de ces cas, je me casse, on se capte un de ces quatre. Allez vous faire foot, j'ai un match de foot. Allez vous faire. Allez tous vous faire huer. Marcher dans les rues, allez tous vous faire juger. Passer sur le billard, allez tous vous faire tuner. Signer sur les contrats, allez tous vous faire plumer. J'allume la télé pour cracher sur des connards que je déteste. J'ai 300 chaînes, pense à la quantité d'insultes que je déverse. On dit que je fais preuve de gentillesse, je fais vraiment preuve de faiblesse. Faudrait leur faire payer leur dette avant que je meure de vieillesse. Je ne dis pas ce que je pense, mais je pense ce que je dis. Quand je vois ce que je vois, est-ce que valent nos vies? Pas si sûr. C'est vrai qu'on est un petit peu des deux. Allez vous faire huer des yeux. Allez longtemps faire et puis rester. Ogni tanto stendo un elenco delle mie ossessioni. Ogni volta ce ne sono delle nuove. Alcune cambiano, altre, grazie al cielo, appartengono al passato. Tutti gli scrittori prima o poi parlano delle proprie ossessioni. Cose che li perseguitano, cose che non riescono a dimenticare, storie che si portano dietro e che attendono di venire alla luce. A coloro che partecipano ai miei gruppi di scrittura faccio stendere un elenco delle loro ossessioni, in modo che possano rendersi conto di come trascorrono, consciamente o inconsciamente, le loro ore di veglia. Dopo averle scritte, le possiamo utilizzare. Abbiamo una lista di argomenti su cui scrivere. E le nostre ossessioni più ostinate hanno un grande potere. È a esse che torneremo ripetutamente mentre scriviamo, costruendoci intorno nuovi racconti. Così, tanto vale arrendersi. Che lo si voglia o no, è molto probabile che essi governino comunque la nostra vita. Perciò è meglio metterle a lavoro a nostro vantaggio. Una delle mie ossessioni è la mia famiglia ebrea. Ogni tanto decido che ne ho scritto a sufficienza. Non ho nessuna voglia di sembrare una cocca di mamma. Al mondo ci sono altre cose su cui scrivere. È vero che esistono altri argomenti e che questi mi si presentano spontaneamente, ma se prendo consciamente la decisione di non scrivere della mia famiglia, questo atto di rimozione sembra rimuovere anche tutto il resto, semplicemente perché spreco un sacco di energie per evitare una certa cosa. È come quando decido di mettermi a dieta. Non appena presa la decisione, il cibo sembra diventare l'unica cosa importante di questa terra, e quando guido la macchina, corro, scrivo sul mio diario, tutte queste azioni diventano maniere per evitare l'unica cosa che desidero veramente. Nel mio caso è molto meglio concedere al cibo e alla fame un certo spazio nella mia esistenza, ma in maniera amichevole, così da non ritrovarmi a divorare distruttivamente 12 pasticcini tutti in una volta. Lo stesso vale riguardo allo scrivere sulla mia famiglia. Basta concederle qualche foglio e ben presto torna a riprendere il suo posto nella galleria delle ossessioni, lasciando spazio ad altri argomenti. Se cerco di soffocarla, ecco che me la ritrovo davanti, anche se la poesia che sto scrivendo riguarda un remoto paesotto di campagna e perfino la contadina dello Iowa sembra sul punto di fare delle frittatine al formaggio. Una volta un alcolista che si stava disintossicando mi spiegò che alle feste l'alcolista sa sempre dove si trovano vini e liquori, che scorta ce n'è, quanto ha bevuto finora e dove andrà a procurarsi il prossimo bicchierino. Io non ho mai avuto una gran passione per gli alcolici, ma ho una passione sfrenata per la cioccolata. Dopo aver saputo di questo aspetto del comportamento degli alcolisti, cominciai a tenermi d'occhio. Il giorno dopo ero a casa di un amico. Il suo compagno di camera stava mettendo in forno dei pasticcini al cioccolato e noi dovemmo uscire per andare al cinema prima che fossero pronti. Mi resi ben presto conto che per tutta la durata del film io sotto sotto continuavo a pensare a quei pasticcini. Non vedevo l'ora di andare a mangiarmene uno. Finito il film, per puro caso incontrammo degli amici che ci proposero di andare insieme da qualche parte a fare quattro chiacchiere. Mi scoprì in preda al panico. Adesso volevo assolutamente quei pasticcini. Inventai una scusa qualsiasi per fare un salto a casa del mio amico prima di concludere la serata da qualche altra parte. Noi siamo dominati dalle nostre equazioni, o forse succede solo a me, ma mi sembra che le ossessioni possiedano una grande energia. Quell'energia può essere imbrigliata. So che la maggior parte dei miei amici scrittori sono ossessionati dallo scrivere e funziona esattamente come per la cioccolata. Si pensa in continuazione che si dovrebbe scrivere, anche se si sta facendo qualcos'altro. Non è molto divertente. Quella dell'artista non è una vita facile, non è mai libero, a meno che non stia dedicando la propria arte. Ma credo che produrre arte sia sempre meglio che bere smodatamente o ingozzarsi di cioccolata. Mi chiedo spesso se tutti gli scrittori dediti all'alcol bevano tanto perché non stanno scrivendo o perché hanno difficoltà a scrivere. Non è che bevano perché sono scrittori, lo fanno perché sono scrittori che non stanno scrivendo. Essere scrittori e scrivere significa sentirsi liberi, significa adempiere la propria funzione. Una volta pensavo che la libertà consistesse nel fare tutto quello che uno voleva, ma la libertà consiste nel capire chi siamo, capire cosa dovremmo fare su questa terra e infine semplicemente farlo. Non consiste nel lasciarsi sviare, nel pensare che una non dovrebbe più scrivere della propria famiglia ebrea se il suo ruolo nella vita è proprio questo. Registrare la sua storia, raccontare chi erano questi Goldberg, immigrati della prima generazione, a Brooklyn, a Long Island, a Miami, prima che tutto questo passi sia cancellato dal tempo. Poveri artisti, dice Katagiri Rishi, quanto soffrono. Finiscono un capolavoro e non sono soddisfatti. Vogliono subito mettersi a scrivere un altro. Sì, ma se si prova questo bisogno impellente, è meglio mettersi a scrivere un altro piuttosto che cominciare a bere e finire alcolizzati, oppure mangiare chili di cioccolatini e diventare dei bidoni. Comunque, non tutte le ossessioni forse sono un male. Avere l'ossessione della pace è un bene, ma allora bisogna praticarla la pace, non pensarci e basta. Avere l'ossessione di scrivere è un bene, ma allora scriviamo. Non lasciamo che quell'ossessione venga distorta e diventi alcolismo. Avere l'ossessione della cioccolata non è un bene, lo so per esperienza, è dannoso per la salute e non aiuta il mondo come lo aiutano la pace e la scrittura. Caroline Forché, una poetessa che ha vinto il premio Lamont per il suo libro The Country Between Us su El Salvador, ha detto: «Bisogna trasformare le proprie ossessioni più intime in modo da diventare scrittori politici». È un'affermazione molto sensata. Non si può scrivere di politica pensando che si deve farlo. Sarebbe una buffonata. Bisogna cominciare a occuparsi di politica, a leggere, a parlarne, senza preoccuparsi dell'effetto che ciò potrà avere su quello che si scrive. Quando sarà diventata un'ossessione, scrivere verrà spontaneo. L'assessorato al turismo della Regione Lazio vi invita a scoprire insieme le feste tradizionali dei comuni della regione. Dal 25 dicembre al 6 gennaio a Sutri, in provincia di Viterbo, presepe vivente. Allestito all'interno del parco archeologico cittadino, nella necropoli adiacente l'anfiteatro di Sutri, il presepe vivente è l'unico nel suo genere, proprio per la sua particolare ambientazione. Le antiche tombe, di epoca etrusco-romana, rivivono per un giorno popolate da personaggi in costume che si ritrovano proiettati indietro nel tempo di ben 2000 anni, coinvolgendo i visitatori in questo viaggio affascinante. Dal 26 dicembre al 6 gennaio a Valmontone, in provincia di Roma, 37esima edizione del Presepe Vivente. Divenuta una delle tradizioni più antiche e seguite di Valmontone, è rappresentato nel campo adiacente al convento Sant'Angelo, dopo la Santa Messa di mezzanotte. Nella manifestazione sono impegnati più di 80 attori con vestiti d'epoca e azioni di vita quotidiana e narrano il miracolo della nascita di Cristo. Promozione delle feste tradizionali dei comuni della Regione Lazio. A cura dell'Agenzia Regionale di Promozione Turistica di Roma e del Lazio. Io non sapevo cosa aspettarmi da questa cosa degli spot, ma sta veramente regalandomi dei momenti fantastici. We'll be right back. I'm Natalie Goldberg. I've been teaching writing for 40 years. You can't come to my class, I'll come into your living room. Everybody wants to write, to express ourselves, to see and think, who are we? It's a very basic human need. You'll discover all kinds of things that you had no idea, that your life is much bigger than you think, and you carry much more inside you. Not just of aggravation and worry, but of beauty and memory and a human life. When I teach, I'm not teaching for you to have a nice program and, you know, you learn another little hobby. I'm dead serious. This is a practice that I expect you to take on for your life. Rigo-ni-a. 18 giugno 2024, 17:43. Rigogna, siamo a 43 minuti di trasmissione e io da qualche puntata annuncio che questo è il momento in cui bisogna un po' strignere. Cioè, de che stiamo a parlare, Rigo? E, se metto un altro spot pubblicitario, Fred, mi caccia, mi manda via, non mi parla più. Non mi rivolge più la parola, però è stato molto divertente fare questo test. Quando ho iniziato a mettere gli occhi su questo libro, soprattutto all'inizio, devo dire che forse la frase che mi ha colpito più dell'introduzione è anche quella che ho trovato più antipatica, più fastidiosamente americana. Perché ho letto tanti libri e presto o tardi questi dannati americani ci devono ficcare dentro questo argomento. Quando John Rolwagen della Cray Research gli dice: beh, Natalie, è come se tu parlassi del mondo degli affari, questo dannatissimo mondo degli affari di merda che deve sempre finire dentro una storia americana. Questi pensano solo ed esclusivamente ai soldi tutto il cazzo di tempo. Comunque, in realtà tutto quello che ho letto e che avete sentito, appunto, si può applicare a qualsiasi cosa nella vita, lo dice anche Natalie Goldberg. Io ho pensato alla scrittura perché io scrivo tutte le settimane, però ho un rapporto strano con la scrittura, nel senso che mi costringo, ma in realtà poi scrivo pagine e pagine di diario, di sfoghi emotivi, e a volte dovrei avere ancora meno filtri, ma non è il caso. E la radio è anche così, nel senso, è da un po' che manco e mi è mancata molto questa finestra di un'oretta in cui mi lascio andare, mi scateno. È un po' come l'ultimo capitolo che vi ho letto, e tra l'altro vi ho letto un capitolo che io non avevo letto, cioè l'ho preso dal segnalibro, volevo iniziare dall'inizio, invece ho fatto proprio come dice lei, ne ho preso il primo. Questa frase bellissima, no? Adesso ve la ribecco. Poveri artisti, finiscono un capolavoro e non sono soddisfatti, vogliono subito mettersi a scriverne un altro. Io non penso ai capolavori, però quando faccio una puntata tendenzialmente vorrei subito farne un'altra, e quando mi registro mentre suono la chitarra vorrei subito farne un'altra di registrazione. E in realtà poi è bello invece quello che suggerisce lei, e magari vi leggo altri pezzi, anzi mi piacerebbe molto, cioè entrare in rapporto con le parole come se fossero qualcosa altro da noi, come se le cose che ci abbiamo dentro non fossero veramente nostre. E vorrei beccare uno spezzone bellissimo dove parla dello studio della letteratura, e lei cita spesso Williams, Carlon Williams, e cita questa poesia, La Carriola Rossa, che reciterò un po' alla buona. Tanto dipende da una carriola rossa glassata d'acqua piovana a bianche galline accostata. E lei dice: L'aspetto più tragico del nostro sistema scolastico è che prende i bambini, poeti e narratori per natura e li costringe a leggere poesie e racconti per poi prendere le distanze da quel che hanno letto e parlarne. Che vuol dire il poeta parlando di una carriola rossa? Intendeva indicare un tramonto? Un carro? E perché era glassata d'acqua piovana? Quante domande! Non voleva intendere altro che una carriola, ed era rossa perché era rossa, ed era appena piovuto. Ed è un po' così, no? Anche questa trasmissione un po' voleva lasciarsi trascinare da questi concetti, e che a Fred sembrano banali, ma ho pensato molto a lui ieri, leggendo questo libro, perché c'è un elemento di caos, no? E chissà, forse scriverò la mia lista delle ossessioni. C'è questo aspetto che, devo dire, mi infastidisce, come se dovessi farlo ancora, no? Come se dicessi, ma non è possibile che me ne devo ancora occupare, no? L'idea di ammettere che ci sia qualcosa che mi tormenta, e quindi fare una lista di ossessioni sarebbe ammettere, no? Che c'è qualcosa che mi tormenta, quindi io per questo sono diverso dagli altri. In realtà non è vero, cioè, nel senso, tutti noi siamo tormentati da qualcosa, e sicuramente nelle mie trasmissioni radio, nelle mie newsletter, nelle mie canzoni ci sono tutte le mie ossessioni: il tempo, la luce, la separazione, sono tutte cose che ci sono in tutte quante, nessuna esclusa. Però è bella l'idea, e lei lo propone anche, e io l'ho fatto, è stato divertente. Se vuoi scrivere qualcosa ma sei troppo disturbato da tutto questo rumore, di tutte le insicurezze, no? Di tutte le cose che si possono mettere tra te e il tuo desiderio di creare, dedicare qualche pagina o comunque qualche minuto a dirti merda addosso, cioè scrivertela, trattarti male, dire vabbè, sai che c'è, io adesso do voce a questa parte di me, e diamogli spazio, facciamo che io adesso racconto di quanto mi faccio schifo. E dopo, sai che c'è? Hai parlato, cioè il tuo momento ce l'hai avuto, adesso fammi fare la cosa che mi diverte. Sono qui, appunto, io questo libro l'avevo iniziato a leggere tantissimo tempo fa, ma forse un 6, 7, una cosa così, e l'avevo appoggiato perché pensavo fosse troppo pratico, cioè no, un manuale di scrittura, no, io voglio leggere un libro bello pesante di filosofia zen, voglio pensare, invece c'è tanta pratica zen in questo libro, ci sono tanti piccoli esercizi, tanti piccoli momenti in cui in qualche modo impari qualcosa di importante, cioè a convivere col tuo fantasma in una maniera dolce, come se il tuo fantasma fosse una specie di vicino rompicoglioni che tiene lo stereo alto tutto il giorno, però tu puoi ancora essere gentile con lui, ci puoi ancora andare d'accordo. Vi lascio con questo pensiero, e ci sono tante canzoni, perché appunto la mia playlist, come dicevo, è un casino senza senso oggi. Voglio farvi sentire questa, che è anche molto anni 90, anche questa abbastanza dimenticata, però è di un gruppo che io metto spesso, ascolto spesso, anche se questa canzone non l'ascolto spessissimo, però l'ultima volta che l'ho sentita, non tanto tempo fa, ho pensato, è incredibile come una canzone pop inglese mi riesca comunque a trasmettere, come dire, questa sana e colorata spiritualità. E magari una stronzata, però quando l'ho ascoltata l'ho pensata, e secondo me ci sta bene in chiusura. Fatemi sapere cosa ne pensate. Sono le 17:51, io mi ritirerei, non voglio andare troppo lungo, non voglio darvi troppo noia. Spero vi siete divertiti a passare il tempo con me. Oggi ero così, ero elettrico e la puntata è volata. Sarà che era da tanto che non facevo radio, ma avevo tanta energia da condividere con voi. Grazie Fred, grazie Cristina che vi siete affacciati per salutare, e grazie a te ascoltatore del futuro nel podcast su Radio Antidoto, su tutti i canali social, e a chiunque nel mondo stia ascoltando, visto che adesso stiamo aprendo i nostri orizzonti. Ho delle idee, vorrei mettere in pasto, vorrei scrivere un'intera puntata, ma a proposito di scrivere, darla in pasto a una I, farmela tradurre anche male in spagnolo e andare in onda in spagnolo, così, brutto, con la mia pronuncia sghemba e la traduzione schifosa della I. magari lo faccio. Per adesso vi dedico i Kula Shaker con Tatva e buon martedì sera, ragazzi. Ciao. Abbi fiducia in ciò che ami, continua a farlo e ti porterà ovunque tu voglia andare. Arrivederci su Rigonia.